Yes, Tuscan olive oil produced in Chianti is of a unique quality. This is due to a number of factors, the soil, the climate, and the four different kinds of olive trees used to create the olio extravergine d'oliva. This name is given only to the oil obtained without using any chemicals, by simply crushing the olives. It has a strong taste, almost spicy and slightly bitter, and a deep green colour. It's extremely healthy, and it also has therapeutic properties. Sì, l'olio toscano è il migliore del mondo. And Sarah thinks it would be a nice gift for her parents. Let's listen to the next section of the dialogue. Aspetti un attimo, le parole nuove. Le ascolti e le ripeta in italiano dopo la seconda volta. Genitori. Parents. Genitori. Una fattoria. A farm. Una fattoria. Si produce. They produce. Si produce. Trasporto. Transport. Trasporto. Ascolti di nuovo queste parole. Genitori. Una fattoria. Si produce. Trasporto. Ed ora ascolti il dialogo. Vorrei comprare dell'olio for my parents. Per i suoi genitori. Certo. Domani visitiamo una fattoria dove si produce anche l'olio. E posso comprare l'olio? Ma certo, può comprare tutto l'olio che vuole. Andiamo in macchina, quindi non c'è il problema del trasporto.